quando cerco te, quando voglio te, e tu non sai ma mi piaci dai, non essere timida. Non lo sai che ti guardo a volte durante il giorno e anche nella notte, forse non sai che mi hai distrutto ogni voglia, adesso solo tu nella mia testa e non resta che parlarti, odorarti, toccarti, baciarti. Ma mi blocco, forse per il trucco, forse per il tuo sorriso e per quegli occhi. Mi tocchi, mi sfiori, mi parli, mi cerchi mai, ma tu dove sei? Forse penserai a me, non riesco a stare senza te. Prendi le mie ali che ti porto nel mio mondo. Si ferma il tempo quando cerco te, quando voglio te. E tu non sai ma mi piaci dai, non essere timida, splendida sei. Un giorno senza te, giusto il pensiero mi uccide. Ti prego non dirmi no, io voglio te. La stella più bella sei tu, lo sai che ti sento dentro me. Lo sai che è per te questo cielo, queste stelle, queste rose, le più belle. Quante donne, quante modelle, quante, quante, quante sono. Ma io voglio solo lei, io voglio solo lei, solo lei. Adesso che te ne vai, come farò non so. Adesso che non rivedrò quel sorriso io, forse riderò oppure piangerò, e non so se continuerò a lottare senza te. Mi sento debole, molto più fragile. Prendimi oppure lasciami, io non resterò a guardarti, no. Impossibile, impossibile, oh no. I ricordi son pugnalato al cuore, i minuti diventeranno ore, oh no, oh no, oh no. Mi sento debole, molto più fragile. Ferma il tempo quando cerco te, quando voglio te. E tu non sai ma mi piaci dai, non essere timida.